e la donna, col suo cane orribile, si ferma, mi guarda e arriccia il naso, mentre il figlio col cellulare nuovo manda sempre messaggi a chi non è presente, manda sempre messaggi a chi non è presente. Un uomo con tre teste si ferma per un attimo, con una testa piange e con una ride, la mano sul mento della terza che mi guarda fissa e sembra voler dire, che mi guarda storta e sembra voler dire, che strano. Questo qua, ma che strano uomo è questo qua. Oggi è un giorno qualunque, come mille altri, si alternano le facce e sembra carnevale. Qual divertente, sublime gioco è disegnarsi in testa le dita nascoste. Casalinghe, con i tacchi a spillo e il grembiule stretto alla vita, sicuramente travestiti da pazzi e pazzi insolitamente desti, politici travestiti da global e professori da barboni e sbronzi, bambini travestiti da scienziati e musicisti da indossatori. L'uomo con un occhio solo si ferma e ride e sembra voler bufonchiare qualcosa.